Vignara. Claudio? Yeah. Adesso ho fatto gli auguri in VHF, ma non saluti mai, allora... È tutto spento, chi è? Dicevi che era sempre acceso, è tutto spento. No, è spento. Aspetta poco fa perché stavo uscendo, invece poi mi hanno chiamato. È uscito alle 8. Ma io non ho più sentito, pensavo che il cane stava sempre pisciando, ho detto se c'era col cane che piscia. Il cane piscia. Ma pisci il Walter? Sì. Pisciuga. Sta uscendo tutto rimbombante. Sembra che sei già lontano e più tre. Ciao Walter, auguri, buon Natale. No, aspetto poco fa la verità e poi mi sono già rotto le balle, sinceramente. Chiamo, più che domenica non mi risponde mai. Poca gente, sì, io ero in Slovacchia, poi sono stato a Roma, poi a Bologna, un po' era assente. Sì, già lo so. Non sai chi c'è lì da te, no? Quindi chiedo, è malto per i furi. Va bene, no, aspetta la verità a volte, aspetta poco fa, proprio 10 minuti fa, mi stavo preparando per uscire, invece mi hanno chiamato, hanno detto no, verso le 8. E allora mi sono seduto un momento e qua c'avevo il 440 acceso, che lo lascio sempre acceso, a volume basso per scaldare, perché già lo sai, questa radio, se non le usi è un casino. Ok, no, io qua c'è rumore di fondo perché ci sono televisori accesi, rumore di fondo, comunque. Sto uscendo male, lo so. No, stai uscendo bene, non male, no, stai uscendo un bel amplificato, un bel bella, come piace a me, da combattimento. Forse l'unica volta nel 27 ti sto sentendo bene. Questo baracchino è l'unico che va bene, secondo me. Non lo so che baracchino è, non c'è come questo, però stai uscendo bene. È lì, come quello che ho sempre, lì come 7007. Con l'SM20, basta. Bene, sto uscendo. In AM stai andando molto bene. Io invece con 756 non sono mai riuscito a togliere piedi, quindi continuo a usare il 440. Non riesco a togliere piedi, né con l'SM20, niente, l'avevo fatto anche un abbinamento MC60, ma la modulazione non mi piace. Troppo brutta, non mi piace. E allora uso questo. No, sta andando benissimo, modulazione strepitosa, molto forte. Questo, vabbè, non sarà così, ma è la voce che hai tu, è le corde vocali. Sono andato a trovare a Paolo con Stefano, te l'ho detto, l'hai sentito a Paolo? Paolo, no, non l'ho sentito, Paolo di Urbio. Allora, siamo organizzati per tirare su il Baravà, un vento a volte, ma vento, aiuti tu. Anzi, ho deciso lui veramente, perché doveva sganciare su, quindi è un casino. E allora abbiamo deciso dopo le feste, sicuramente ci riandiamo e passo a famiglia una giornata, sono andato a trovarli a avere la loro sezione, veramente, gente ingambissima, tutti anzianotti, però gente veramente toga. Sì, sì, infatti bisogna farsi sentire, perché mi faccio sentire sempre io, tu, cosa, adesso la mattina sull'R0 c'è sempre Gianni, no, WH che va a lavorare, sta entrando adesso qualche stazione di Azzara, NSH e altri, la mattina alle 8:05, 8:10, e lui entra alle 8:15, io entro 10 minuti, lo saluto e poi ne vado. Cerco di rispondere un po' a tutti, altrimenti no, che è un casino, non va nessuno. Non so, quello è presto, sai, io faccio la radio, magari sta facendo i turni, a volte esce anche alle 6 del mattino da lavoro, perché li abbiamo serrato, fanno anche i turni, mezzanotte 6, quindi fare la radio a quell'ora no. Oh, la mattina, sì, ma io la mattina entro, l'altro giorno alle 10:30, 11 così, stavo parlando con Domenico, non so, Domenico risponde, sull'R0, qualche volta Vanni, hai sotto il riacceso, accendiamo anche l'R0, non c'è traffico a volte, capisco che tutti sono impegnati per carità, però bocca. No, già, vorrei. Ce ne sarà, tra un po' faremo guerra, c'è Zodo Marcolino di Alghero che ha messo il traliccio sul tetto, 12 metri, si sta organizzando, tra un po' ci saranno le battaglie stellari in HF. Sì, vabbè, le battaglie in HF, io lo so, le fatte spesso, ma bisogna anche a livello locale così la sera sentirsi, cambiare due chiacchiere, due stanzate. Hai capito? La HF lo so, HF voi battagliati, io sono ancora fermo con la direttiva perché non gira, c'è qualcosa bloccata col vento, pensavo non avesse fatto danno, ma sicuramente Giovanni, come si dice, ha detto che scende e mi dà una mano, perché era già venuto a montarla lui a 3:20. Quindi dobbiamo abbassare, vedere un po' cosa è successo e mettere a posto il pezzo dell'aggancio dei cavi lì che si è praticamente girato con quelle staffettine di plastica del direttore. Insomma, fare un po' di valutazione, vediamo un po' se tutto procede bene, però io da solo non posso fare niente. Bisogna sempre di qualcuno. Apri la fantasma, spero una bussata. Non so, se fossi lì come sei tu, avrei abbassata a terra e mi sarei arrangiato, ma qua il mio sistema telescopico, già lo sai, era quello di Fabrizio, quindi ho bisogno, anche perché c'è un bel peso adesso, ho bisogno di una mano per sganciare, abbassare piano piano, e basta, darle una controllatina e vedere cosa è successo, capito? Perché è bloccata da una parte, quindi qualcosa è successo. Il dottore penso non ci abbia niente, forse sia anche quelle staffe che stanno toccando da qualche parte, ma io non le vedo, così da sotto non si vede niente, dobbiamo abbassare e vedere un po'. Aspetta che sono arrivato un amico, sto parlando uno spalviero, è arrivato Fabrizio. E vabbè, oggi? Sì, oggi a me, oggi a te. E vabbè, ma al telefono? Non è al telefono, è qua con me. Ah, lì con te, ciao Fabrizio, tanti auguri. Un abbraccio grande, da quando non c'è più tuo padre e in via Milano non ci passi più, manca a controllare la strada. Oh, ormai terra di nessuno, quindi fai quello che vuoi. Ciao Claudio, tanti auguri. Ma non solo terra di nessuno, anche con il riflettore terra di nessuno, prima c'era sempre movimento. Ma appare un camposanto, per carità. Cioè gli amici, tuo padre, un po' in movimento. Quando andavo lì, adesso è tutto morto. Peccato, può fare qualcosa lì, invece non fa di nulla, una gara non va nuda sul bizzino, questa grassone. Aspetti, ha sentito però stava parlando, riprendo subito. Ma dove siete? Giù al bunker o dall'altra parte? Cosa stai usando? La mattova? Stop. Ehi Stefano! Buonasera, chi era l'altro? Walter Diabolico. Ah, non lo sento. Un attimo, sto parlando con Fabio. Sì, già lo senti, sto parlando con uno che lì a casa sua. KK, va bene. Allora, a casa sia che tu stai? Sono qui. Buonasera Walter, se mi ascolti. Io lo sento piccolino. Aspetta che deve essere il telefono. Sì, sì, a casa, a casa. Mi sto aspettando mia figlia che rientri. Ancora siamo in alto mare qua, vabbè che non è che dobbiamo fare grandi cose, però c'è da preparare, detto che veniva presto, invece si è trattenuto al lavoro a festeggiare, vabbè, tu dici mania nuovo giorno. Anch'io mi ero un po' impegnato facendo delle cose a commissione che stamattina, tutta la mattina in giro, facendo la roba, sono tornato tardi, poi anche stasera ho avuto un po' da fare, adesso ho 10 minuti e poi mi stacco nuovamente. Paolo l'hai chiamato? Sì, sì. Ti ho mandato gli auguri, insomma, a te in generale, anche a tutta la sezione. Sì, ho visto, ti salutano anche loro. Sì, avremo modo poi di rivederci dopo Natale, prima di Capodanno, ci facciamo un salto. Vediamo se riusciamo anche a tirar su quel baravan di Paolo. Aspetta un secondo solo, un attimo solo. Eia. Aspetta, Walter, che sono al telefono. Vale, no, fai. Sì, sono sul posto.